Diciamo che quello che apparentemente sembrava soltanto un'ipotesi latente, lontana, che la stessa Premier Meloni in campagna elettorale aveva scongiurato come possibilità di toccare la 194 e dunque il diritto di accesso all'aborto, nei fatti adesso si manifesta nella sua forma più violenta ed evidente, che è quella che di fatto vuole togliere il diritto di aborto alle donne, alle persone nel nostro paese, favorendo altresì ingerenza di gruppi e movimenti antiabortisti all'interno dei luoghi della salute pubblica. E sottolineo sempre l'aspetto più importante, perché non parliamo soltanto di ingressi e di ingerenze strumentali e ideologiche, ma parliamo anche dello stanziamento di fondi e quindi dall'acquisizione di potere sempre maggiore di questi gruppi. Ovviamente quelle che sono le dinamiche all'interno del nostro paese hanno inevitabilmente delle ripercussioni anche sul resto d'Europa. Lo abbiamo visto rispetto alla questione dell'emendamento al PNR. Quindi diciamo che quello che ci arriva da fuori poi si ripercuote rispetto al panorama del nostro paese, ma lo vediamo anche da quello che dall'interno invece muove verso l'esterno, e quindi la questione appunto della rimozione della specifica che era stata fatta di Hiroshima nel 2023 al precedente G7, che prevedeva proprio il pieno impegno dei paesi membri per assicurare salute e diritti sessuali riproduttivi completi per tutti. Anzi, addirittura c'era stata una richiesta di implementazione di questa misura proposta da Francia e Canada, in cui non si parlava soltanto di affrontare la questione dell'aborto, ma proprio di garantirla, mentre invece pare che l'Italia abbia rimosso completamente questa postilla. Ovviamente ci sono una serie di rimaneggiamenti, mi viene da dire che aspettiamo con ansia la fine di questo G7 per capire poi come ci si muoverà. Un modo per evitare queste ingerenze potrebbe essere inserire l'aborto in Costituzione, come è stato garantito in Francia, oppure ho visto che nelle tue storie Instagram parli anche di inserire un osservatorio di vigilanza permanente, quindi ti chiedevo se ce ne puoi parlare. Sì, diciamo che le misure a tutela dell'aborto dovrebbero essere tantissime. Innanzitutto, in un paese, diciamo, utopistico, che è quello che cerchiamo ostinatamente di portare avanti, non ci sarebbe bisogno di nessun istituto di vigilanza, perché i diritti verrebbero garantiti e parleremmo dell'implementazione. Quello che però sappiamo nel nostro paese è che questi diritti non vengono garantiti, e non è che non vengono garantiti da quando c'è il governo Meloni, non sono stati garantiti negli anni e si è fatto ben poco per prevedere delle misure che garantissero questo tipo di misure. Purtroppo lo abbiamo visto anche con i governi precedenti. Molto spesso quello che accade, che provo a spiegare anche attraverso degli esempi concreti, è che tantissime misure vengono fatte passare sotto traccia, proprio per averne contezza quando ormai il danno è compiuto. Ho fatto un esempio anche che ho vissuto sulla mia esperienza personale, che è stata quella invece di aver assistito all'approvazione di una convenzione tra un gruppo antiabortista e una ASL, in quel caso era la ASL Napoli 1, e la cosa divertente in quel caso, e parliamo del 2018, è che la convenzione era stata firmata il 14 di agosto, quindi diciamo che non vogliamo pensare male, però mi sembra che tutto quello che ovviamente non vuole essere, diciamo così, criticato o sottoposto a delle rivendicazioni, in questo caso da parte del movimento femminista, viene fatto sempre un po' sotto traccia, senza dare nell'occhio. Quindi sicuramente avere la possibilità di un osservatorio di vigilanza sulla garanzia del diritto di aborto e su quelle che sono le misure che vengono indicate potrebbe essere uno strumento utile. In forma proattiva, sicuramente la Francia rappresenta un esempio illuminato, così come rappresenta un esempio illuminato tutte quelle che sono le indicazioni che molto spesso sono assolutamente non considerate dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che continua ad essere un organo scientifico internazionale che dovrebbe essere di riferimento estremo per tutte quelle che sono le misure di tutela della salute, ma che vengono totalmente bypassate. Parlo ad esempio della questione dell'aborto in telemedicina, che è una pratica che snellirebbe di molto e anche lì, no, sorpasserebbe un po' la questione dell'obiezione di coscienza, che ad oggi continua ad essere un vincolo estremamente problematico per le donne per un accesso dignitoso a questa pratica, e permetterebbe anche di poter autogestire nella maniera anche più consapevole possibile il proprio corpo, la propria autodeterminazione. Abbiamo degli echi lontani nel nostro paese, quindi abbiamo l'approvazione delle linee guida che sono state approvate nel 2021, ma la cosa paradossale è che sono state approvate per un unico motivo, cioè che abbiamo avuto una pandemia mondiale, altrimenti non ci saremmo adeguati al resto d'Europa, quindi sul passaggio dalle 7 settimane alle 9 settimane per quanto riguarda il farmacologico e la possibilità di poter somministrare l'aborto farmacologico all'interno dei consultori. Da lì si apre anche un'altra grande questione, che è da un lato il fatto che i consultori vengono continuamente caricati di compiti e di responsabilità, però nei fatti i consultori continuano ad essere depotenziati e smantellati. Adesso vediamo anche che è stato dato l'accesso a gruppi e movimenti antiabortisti che invece ricevono proficui finanziamenti per la loro presenza lì, e vediamo anche che questo tipo di distribuzione non c'è perché queste linee sono nazionali ma devono essere assunte dalle regioni, perché ricordiamo che l'ordinamento della sanità nel nostro paese funziona secondo un ordinamento di tipo regionale, portando avanti quello che è un divario, un dislivello non solo tra le regioni ma proprio un divario fondamentale tra il nord e il sud del nostro paese, che verrà amplificato da una proposta di legge violentissima che è quella dell'autonomia differenziata, che nei fatti continua a considerare le donne che decidono sulla loro riproduzione come pazienti di serie B, e all'interno di questa categoria c'è una lotta tra povere, che è quello che riguarda ad esempio chi può accedere all'aborto in regioni maggiormente illuminate o che hanno una maggiore disponibilità rispetto a quelle regioni in cui non è possibile avere questo tipo di accesso. Fare previsioni è sempre difficile, però secondo te in quali altri modi i Provita proveranno a colpire l'autodeterminazione delle donne in Europa? Beh, diciamo che noi abbiamo sempre in cantiere, questo diciamo ce lo siamo dimenticati ultimamente, una proposta di legge di iniziativa popolare portata avanti da gruppi e movimenti antiabortisti, dove sono state raccolte più di 150.000 firme, che è quella dell'obbligo dell'ascolto della contrazione cardiaca, che prende e mutua diciamo la propria idea da quella che è una legge dell'Ungheria di Orban, quindi i modelli purtroppo a cui ci ispiriamo sono sostanzialmente quelli, e quella legge dovrà essere discussa, quindi diciamo che già qualcosa in cantiere sostanzialmente c'è, e la partita come sempre si giocherà sul piano dei finanziamenti, perché purtroppo parliamo di gruppi e movimenti che continuano ad essere alimentati con fondi sempre più cospicui. Su questo abbiamo avuto e continuiamo ad avere purtroppo la Regione Piemonte, che è il nuovo laboratorio antiabortista, dove è stato stanziato 1 milione di euro per Fondo Vita Nascente proprio per l'ingresso di gruppi e movimenti antiabortisti. Credo che bisognerà fare grande attenzione a quello che è il lavoro sulle regioni, perché noi viviamo in un paese dove un diritto alla salute viene sancito e garantito a seconda della maggioranza che sale in regione. Questa cosa è assolutamente insostenibile. Sottolineo anche, questo secondo me è un dato importante, l'annuncio della portavoce di Provita e Famiglia, Jacopo Coghe, all'alba delle elezioni europee, quindi della vittoria schiacciante di Fratelli d'Italia, si è innanzitutto complimentato soprattutto con le persone che avevano aderito al manifesto valoriale che hanno presentato, tra cui ovviamente tra i punti cardine c'era quello del contrasto all'aborto, e hanno addirittura annunciato di avere a Bruxelles un presidio permanente per motivare e monitorare quello che accade rispetto alle loro proposte di legge. Quindi diciamo che mi sembra una guerra aperta su tutti i fronti. Chiudo dicendo una cosa: io mi auguro sempre che da un lato ci sia uno sguardo attento a quello che accade a noi, è uno sguardo lungimirante, perché tante cose avremmo potuto prevederle, di fatto non c'era la volontà politica di farlo. Dall'altro mi domando se e quando cominceremo invece a fare delle proposte concrete, perché mi sembra che il piano molto spesso sia quello di contrasto a quello che gruppi e movimenti antiabortisti portano avanti, ma non ci sia mai niente di realmente proattivo che possa mettere le basi per un diritto garantito. Quindi muovere da un lato sull'osservazione di quello che accade e prevenire, ma dall'altro anche interrogare politicamente su che cosa è possibile fare per garantire questo diritto, perché altrimenti passerà il governo Meloni, arriverà un altro governo, ma i diritti continueranno a non essere garantiti, e questo è intollerabile.